Levitico capitolo undicesimo. Poi l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dicendo loro: «Parlate così ai figliuoli di Israele: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete d'ogni animale che ha l'unghia spartite e ha il piè forcuto e che rumina. Ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita, non mangerete questi: il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro; il coniglio, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro; la lepre, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, la considererete come impura; il porco, perché ha l'unghia spartita e il piè forcuto ma non rumina, lo considererete come impuro; non mangerete della loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete come impuri. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell'acqua. Mangerete tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi, ma tutto ciò che non ha né pinne né scaglie, tanto nei mari quanto nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, l'avrete in abominio. Essi vi saranno in abominio, non mangerete della loro carne, e avrete in abominio i loro corpi morti. Tutto ciò che non ha né pinne né scaglie nelle acque vi sarà in abominio. E fra gli uccelli avrete in abominio questi: non se ne mangi, sono un abominio. L'aquila, l'ossifraga, l'aquila di mare, il nibbio ed ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano ed ogni specie di sparviere, il gufo, lo smergo, l'ibi, il cigno, il pellicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa, il pipistrello. Vi sarà pure in abominio ogni insetto alato che cammina su quattro piedi, però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno le gambe al di sopra dei piedi per saltare sulla terra. Di questi potete mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di solam, ogni specie di argol, ogni specie di agab. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. Questi animali vi renderanno impuri. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera, e chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considererete come impuro ogni animale che ha l'unghia spartita ma non ha il piè forcuto e che non rumina. Chiunque lo toccherà sarà impuro. Considererete come impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera, e chiunque porterà i loro corpi si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali considererete come impuri. E fra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete come impuri questi: la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il topo ragno e la rana, la tartaruga, la lumaca e il camaleonte. Questi animali, fra tutto ciò che striscia, saranno impuri per voi. Chiunque li toccherà morti sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà a qualcun d'essi quando sarà morto sarà immondo, siano utensili di legno, o veste, o pelle, o sacco, o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso, sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. E se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si trova dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Ogni cibo che serve al nutrimento sul quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro, e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro. Il forno o il fornello sarà spezzato, sono impuri, e li considererete come impuri. Però una fonte o una cisterna dov'è una raccolta d'acqua sarà pura, ma chi toccherà i loro corpi morti sarà impuro. E se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro. Ma se è stata messa dell'acqua sul seme e vi cade su qualcosa dei loro corpi, lo considererai come impuro. Se muore un animale di quel che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Parimente, colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che brulica sulla terra è un abominio e non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete alcuno che strisci sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi, poiché sono un abominio. Non renderete le vostre persone abominevoli mediante alcuno di questi animali che strisciano, e non vi renderete impuri per loro mezzo in guisa da rimaner così contaminati. Poiché io sono l'Eterno, il Dio vostro, santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo, e non contaminate le vostre persone mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra. Poiché io sono l'Eterno che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. Questa è la legge concernente i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, affinché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare.